fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho resistito per quasi un anno dall'ultima volta che perlomeno ho pensato a lei. Poi, ieri sera l'ho rivista. Era lì che mi aspettava, era proprio quella che sognavo, desideravo da anni. Avrei dato l'anima per averla. Però, per un motivo che forse dirò ma non so se dirò, mi ha impedito ad averla, mi ha impedito di possederla. Eppure avrei dato chissà che per montarci sopra. Mi guardava, mi osservava, mi occhieggiava. Sembrava fatta apposta per me. Ma anche questa volta mi accontenterò di sognarla e di raccontarla. Il mio cammellino è l'odore dell'olio di ricino che mischiavamo alla miscela del motorino per lasciare una scia da bolide al nostro passaggio. Non ricordo perché, ma a fine anni 60 il profumo di ricino bruciato da un due tempi corrispondeva a misteriose e illegittime elaborazioni al canonico alesaggio di quel cinquantino. Davamo olio di ricino come squadristi ai nostri minarelli spompati ed eravamo ebri di velocità come artisti dadaisti. Questo è il mio cammellino preferito. Cammellino, per chi non conoscesse a fondo il lessico melogmane, significa un ricordo che se si estingue, si estingue anche la vita. Nel racconto fantastico di un compianto artista morto qualche anno fa, Filippo Martinez, i cammellini della memoria erano degli animaletti piccolissimi, psicopompi, che venivano di notte e portavano fuori dalle orecchie uno dopo l'altro ricordi del morituro. Ma può accadere anche un anno, due anni, tre anni, dieci anni prima della morte. Uno dopo l'altro questi cammellini lentamente prendono il ricordo e lo portano fuori come dei piccoli pacchetti. Alla fine il protagonista del racconto del defunto poeta Filippo Martinez si ritrova ad incontrare un cammellino, si sveglia, lo vede che esce fuori dall'orecchio. Dice: che stai facendo? Dice: sto portandoti fuori i tuoi ultimi ricordi, ricordo delle sue scarpe nuove di quando era bambino, il ricordo del compleanno di suo figlio. E si accorge dalla sua mente sono rimasti pochissimi ricordi. Gli dice: noi siamo i cammellini della memoria. Quando uscirà dal tuo orecchio l'ultimo dei tuoi ricordi, tu non avrai più ragione di vivere. Quando non c'è più memoria, non c'è più vita. Per questo io insisto tanto sulla necessità di produrre supporti integerrimi e indelebili per mettere i nostri ricordi. Beh, il mio cammellino è questo, il cammellino delle motociclette, è il ricordo, è una fanciullezza, un'adolescenza, un'età quasi matura passata a costruire, immaginare, rimettere a posto, smontare, rimontare, ingrassare, ungere, truccare, elaborare, rischiare la vita assieme, rischiare la vertigine con delle motociclette. Poi ve lo dico, sognavo tanto queste motociclette, dicevo: il primo mio stipendio sarà per comprarmi finalmente la motocicletta della mia vita, quella che mi hanno sempre negato per un insieme di ragioni. Arrivai a Roma con il primo fantastico lavoro per la lettera finta dello zio arcivescovo che mi ero fatto da solo. Avrei avuto a sembra dicembre il mio primo stipendio, già sognavo, sfogliavo motociclismo, vedevo tutte le foto di motociclette, mi sarei comprato finalmente col mio stipendio. Andai a Torino a fare un'inchiesta sulla Torino misteriosa, diventai amico della più grande astronoma, chiromante e maga torinese. Dopo una settimana di servizi disse: beh, ti faccio la mappa del cielo, ti guardo un po' le tue cose. Io queste cose non credo assolutamente, però mi disse: guarda, tu morirai a cavallo, non montare mai a cavallo. Io a cavallo dico: vabbè, che mi frega, non sarà un grande sacrificio, puzzerò un po' meno. Dice: però guarda, per essere sicuro non andare mai sulle motociclette, perché ti schianterai su una moto. Beh, accadde 25-30 anni fa, da allora non sono mai più montato su una moto, perlomeno una o due volte secondo me nella vita quando guidavo io. Qualche volta mi danno qualche passaggio, ma illudo me stesso che non valga quando sto dietro agli altri. E quindi il sogno realizzato nella mia vita sarà l'argomento di oggi. Quanto è importante per voi la motocicletta? Cosa significa andare in moto? Cosa è una motocicletta nella vostra vita? Quali sono i momenti migliori che avete passato sulla motocicletta? Insomma, raccontatemi quello che io non potrei avere mai più dalla vita. Ricordo anch'io di aver posseduto un Bravo della Piaggio e di averlo pimpato come poi vent'anni dopo sarebbe successo con i programmi di MTV. L'unico problema è che lo facevo io nei confronti di un oggetto che doveva piacere a me. Le persone che si siliconano perché lo fanno? Per piacere se stesse o per risultare più attraenti nei confronti degli altri? Il discorso proprio dell'elaborazione dei motorini, che facevano i 40 all'ora, dovevi studiarle tutte per tirare fuori delle bestie che potevano arrivare anche a 70-80. Adesso anche i giovani hanno levato anche quel piacere lì, perché già li pigliano che fanno i 70, c'è proprio l'appiattimento anche sotto questo punto di vista qua. I più grandi, quelli che avevano le T3 della Vespa Primavera, mettevano la marmitta bianca che era quella della Pinasco. Poi mi ricordo che a 14 anni c'era la gara tra i vari kit di preparazione, quanti travasi hai. Però mi ricordo che già le biciclette si montavano le manopole della Tomaselli, che facevano troppo figo. La percezione del mezzo a due ruote è completamente differente rispetto a questi ricordi, a questi cammellini di nostri ascoltatori. Abbiamo parlato della facile e fantastica moda delle macchinine 50, oggetto di culto e di lussuosa ostentazione di potere d'acquisto della gioventù dorata, coatta, romana, forse un po' bolognese, forse in parte napoletana, altre latitudini hanno altri significati. Ma la moto, il motorino, il ciclomotore, lo scooter, nella generazione che precede quella contemporanea, quella che guida scooter per le città d'Italia, era diametralmente diversa. Vedete, è qualcosa che andava forzato, qualcosa faceva parte del nostro desiderio di espandersi, del nostro desiderio di libertà, della nostra ansia di fuggire, ma non perché si fuggiva da qualcosa, ma si fuggiva verso qualcosa che non si conosceva. Oggi lo scooter è, al contrario, simboleggia la schiavitù. Va in scooter chi deve andare a lavorare e a fretta, va in scooter chi deve muoversi velocemente, perché la qualità del suo tempo non è sufficiente a soddisfare le necessità con cui deve riempire il suo tempo. Quindi vanno in scooter chi? Gli agenti immobiliari, gli impiegati, i giornalisti, gli avvocati, i magistrati no, devono avere la macchina con la scorta. Insomma, una serie di professionisti deve muoversi velocemente, deve fare tante cose, e il rapporto tra spazio che deve percorrere e tempo che deve impiegare in attività professionali lo costringe a prendere un motorino. Quindi il motorino oggi, lo scooter, il ciclomotore, la moto urbana, è, nella mia visione, il suggello della schiavitù, di non essere padrone del proprio tempo. In altri tempi era la meravigliosa macchina della fuga. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te, Gianluca. Sono un po' emozionato, ma... mica parliamo di cadaveri, di morti, di scomparsi. No, volevo darti innanzitutto del tuo e farti complimenti per la tua grande classe. Chiamo per questo. Io e il mio amico Maurizio, da bambini, non c'avevamo una lira, e col nostro sciaino la più grande preparazione era forare il filtro dell'aria e cambiare il giglè. E poi smontavamo una Vespa, per chi è all'ascolto sicuramente ci saranno dei super tecnici, riuscivamo a togliere un volano, cacciavite e martello. In vecchiaia ma alla fine sai, il risultato è che faceva solo un pochino più di rumore dell'aspirazione, perché cambiare i parametri non serviva poi, però era un'illusione, lo capisco, facevo anche di peggio. Esatto, come ho detto, la tua si ingolfava e basta, ecco, quello è il risultato. In vecchiaia sono riuscito a comprarmi una super motocicletta che è bellissima, ma non mi dà quelle emozioni perché non riesco a metterci le mani, non riesco a truccarla, non riesco a farla. Ma soprattutto mi viene in mente, questo volevo dire, il concetto. Ecco, il problema è questo. Aiutami a capire, perché a me mi manca una fetta di esperienza. Per la, diciamo, fantomatica maledizione torinese, non ho mai più voluto prendere una moto in mano. Ma così, è l'unica cosa mi sono negato nella vita. Poi non mi sono negato assolutamente nulla, t'assicuro. Ecco. Io me la sono negata per forza, che mio padre non voleva che mi comprassi la motocicletta. Esattamente, anch'io, ma io dico, il primo stipendio mi compro tutto quello che voglio. Ma io non potevo, perché mio padre, che mi sono emozionato per quello, mi disse: ti butto fuori di casa, comprati la macchina, ma la moto non voglio. Ma il mio primo stipendio corrispose al mio autobuttamento fuori di casa, quindi io mi ero organizzato. Però per non parlare, dico, la differenza, vorrei vedere le differenze generazionali. Oggi la motocicletta è qualcosa di inviolabile, dà grandi soddisfazioni sicuramente, ma non può essere cambiata, è immodificabile. Ha dei sistemi elettronici, dei circuiti misteriosi, pulsa soltanto a distanza quando ti vede. Allora era qualcosa di molto artigianale, era come una massa di pietra che potevi scolpire ogni volta. Esatto, esatto, esatto. E soprattutto volevo dire a questi ragazzi di oggi che proprio con l'elettronica hanno a che fare tutti i giorni, ma con la manualità zero, zero. Come diceva quel signore anche, siamo partiti da truccare la bicicletta fino al acciaino, fino alla Vespa e poi, ripeto, in vecchiaia, con la fortuna del denaro ma con la sfortuna di perdere certe sensazioni quasi, quasi sessuali, ecco, di sì, però vedi, la nostalgia è sintomo di deterioramento, quindi non bisogna essere nostalgici ma guardare con grande attenzione e grande frenesia anche la contemporaneità della sua inviolabilità. Gli oggetti contemporanei hanno dei segreti ancora più nascosti che dovremo sicuramente conoscere. Grazie Alessandro. Mauro. Buongiorno, allora, fotografia seconda metà anni 70, io ho 46 anni, il mito assoluto dell'epoca è il Fantico Motor Caballero che usciva con carburatore dell'Orto 14, che però tutti mettevano subito il 18 come minimo. Il 18, il 19, adesso non ricordo. Poi c'è stata tutta praticamente la fenomenologia della Vespa. 16 anni, mitico patentino e la Vespa in tutte le sue derivazioni, quindi principalmente il PX che veniva trasformato in questo modo fine anni 70, parabrezza ovviamente piegatissimo, uno praticamente ce l'aveva appoggiato proprio sulla testa, poi venivano tolte le scocche. Veniva ovviamente sostituito alla marmitta, veniva messo il marmittino che originariamente poi un tempo si chiamava, se lei si ricorda, marmittino SS, veniva poi utilizzato nell'elaborazione dei cinquantini che diventavano 90. Sì. E quindi praticamente queste veste... Ma molte volte guardi, mi ricordo che, se non sbaglio, la parte bassa del motore era lo stesso, bastava semplicemente comprare un cilindro, una testata e un pistone nuovo e diventava 90. Sì, diventava 90. Sembrava fatto apposta, molti lo facevano appena la compravano la Vespina, facevano dare subito il cilindro della 90, che era una bomba, devo dire. Sì, infatti c'era proprio anche questo tipo di lessico, testa, pistone, cilindro, no? Si cambiava testa, pistone, cilindro. Poi un'altra caratteristica che sicuramente ti ricorderai era l'uso appunto dei due portapacchi, che non servivano assolutamente a nulla, però ce n'era uno anteriore e uno posteriore. È vero, sì, è vero. Poi c'è stata la scuola di pensiero, cioè le due scuole di pensiero, quelli che avevano il PX e quelli che avevano il Cagiva, che ricorderai sicuramente. Certo. Ecco, quindi... Il PX era un po' fighetto, perché c'era già le frecce, era qualcosa che già assomigliava molto agli scooter moderni. Sì, diciamo, originariamente il primo era il TS, e prima del PX c'era il TS. Vabbè, adesso entriamo troppo nel particolare, faremo orgasmare di piacere tutti i vespisti, ma gli altri si annoiano. Ti saluto, ti ringrazio. Marco. Ciao, buongiorno. Allora, io avevo all'epoca 16 anni, avevo un 125 descritto come ha descritto il precedente ascoltatore prima, doppio portapacchi, ma la particolarità è che io la mia... non mi ricordo, ma cosa serviva il doppio portapacchi? Senti, a me principalmente quello davanti mi serviva perché quando facevo le corse, proprio per fare la corsa, l'avevo adattato, c'avevo un radiatore con dei tubi di gomma che mi andava un liquido che mi bagnava il motore perché se no si ingrippava. Certo, sì. Però io a Firenze esiste il viale del metano, il vecchio viale del metano all'epoca, oggi è una superstrada, e noi il sabato sera le varie scuderie, c'era per esempio quella di Marcello e Piero, io ero degli Alfani, e ci si confrontava in modo incosciente perché non mi... Tu c'avevi un raffreddamento ad acqua aggiuntivo che potevi mettere, sì, o togliere. Sì, che si levava, niente, si metteva. Era una sorta di damigiana che buttava acqua sul motore. Era un piccolo radiatore che era un radiatore che all'epoca c'era un Laverda o l'Aspes Yuma, sì. Io me l'ero procurato, l'avevo adattato davanti con il meccanico e mi serviva per fare le corse. Ma la mia Vespa c'aveva volano alleggerito, 24 di carburatore, e io incoscientemente con questo motore, ma camminava, faceva più di 120, e ci sono arrivato a Policeno, io sono umbro, ci siamo sentiti altre volte, io sono umbro, sono di Foligno, passai da Foligno, tutta strada normale feci e arrivai fino a Ascoli Piceno e al ritorno mi feci tutta l'Adriatica, il Muraglione, e ritornai a Firenze con questa Vespa perfetta da solo, c'avevo una tanica di miscela sul portapacchi di dietro perché consumava quanto un muratore al sole. Certo, anche dal punto di vista della sicurezza, oggi farà brividire. No, oggi mi arresterebbero. Cioè, tu pensi uno gira con una tanica di miscela dietro? Sì, è una bomba umana, lo arrestano subito. Ma io parlo del 1980, ancora certe cose si potevano fare. E io mi sono sovvenzionato le ferie. Per esempio a Senigallia trovai un gruppo di ragazzi, erano incuriositi dalla Vespa, cominciai a tirare su e le scommesse, 50.000 lire, 100.000 lire, io mi ci sono sovvenzionato tutto il mese di luglio e agosto in ferie. Bravo, in bocca al lupo. Devo dare i numeri, 800 24 00 24. Vedo che stiamo cominciando a virare velocemente sulla Vespa. La Vespa pare che sia in questa mattina, forse perché qui a Roma è piovosa e la Vespa è il più protetto dei motocicli quando piove, almeno riguardo alla generazione che stiamo noi toccando. E quindi mi piace chiamare a questo punto Ilario Lavarra. Ilario Lavarra, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ecco, tu hai sentito, Ilario, l'artigianato vespistico fino a che punto può arrivare o arrivava in epoche arcaiche. Tu tra qualche giorno parti a fare il giro delle Tre Americhe in Vespa, 70.000 km da solo. Esatto, niente, è una idea che ho mantecato con gli anni, è un mio sogno che sto per realizzare e non vedo l'ora di iniziare. Da dove parti e dove arrivi, per capire? Allora, parto da New York, vabbè, arrivo lì ovviamente in aereo. La spedisce fino a New York, la spedisce? La Vespa dovrebbe essere già arrivata perché l'ho mandata via nave, in quanto mi è convenuto a livello economico. Ma non hai nessuno che ti sponsorizza, fai tutto... No, voglio andare da solo, completamente da solo. Bravo. Senza dover rendere conto niente a nessuno, e poi non voglio confondere la mia passione magari con interessi economici o che altro. Cioè, voglio che sia una cosa solo mia, quindi vado senza sponsor. Sei soltanto te un Vespone? Io e la mia ammiraglia, che è una sprint veloce del 1970. Ah, quindi è una vecchia Vespa, vai? Sì, la sua età. Aspettate, diciamo, è una vecchia Vespa, però ci ho rifatto il motore l'anno scorso perché in vista appunto del viaggio non volevo andare lì con un motore di 40 anni. Però, vabbè, alla sua età, in ogni caso. Però i freni, il resto è tutto quello di... Assolutamente, sì, freni, sì. Sì, non frenava, ma nemmeno se mettevi i piedi per terra con la Vespa, esatto, me la ricordo. Esatto. Cioè, era rischiosissimo. Frenare con la Vespa era meglio buttarsi per terra, allora, sì, a quei tempi. Sono dispositivi di rallentamento, chiamiamoli così. Sì. Però, vabbè, comunque sia, io l'amo anche per questo, la Vespa. Perché, in ogni caso, nella sua semplicità... si può riparare, si può mettere a posto. Sì, quando saltavano le corde poi era una cosa bellissima. Sì, ma piace comunque mai per strada. Si tirava a mano poi. Sì, esatto. Vabbè, ci sono miei amici che ogni tanto gli si spacca l'acceleratore, allora collegano un cavo direttamente, certo, al carburatore con la mano. Si tira su, ma fatto tante volte, chiaro. Manopolo. È una cosa molto artigianale, quello sì. Ritornando al discorso di prima. Quindi tu partirai a fare 70.000 km con un vecchio Vespone del 70. Esatto, sarà una piccola impresa etica almeno per quanto riguarda me, ovvio non è il primo viaggio che faccio. Quindi parti da New York e arriverai, hai detto, scusami. Allora faccio il giro completo del continente americano, cioè arrivo a New York, poi mi dirigo verso Canada, Alaska, da Anchorage e ritorno indietro seguendo il Pacifico, cioè arrivo fino in California, una volta che sono in California mi addentro un attimo negli Stati Uniti, poi giù Messico, Centro America, sempre seguendo il Pacifico, la costa del Pacifico, arrivo Cile, Perù e ritorno dall'Atlantico, cioè Argentina, Brasile, Venezuela, Centro America di nuovo e ritorno fino a New York. Ecco, come sei attrezzato per eventuali ricambi? Cioè una Vespa del 70 ti si rompe, non lo so, in mezzo al Canada o in Alaska, che ci fai? Te la metti sulle spalle? No, cavalco una rena e ritorno a casa. No, onestamente non è che mi sono... Che ti porti dietro di riserva nel caso? Sì, allora io ho calibrato bene i ricambi, in quanto non volevo comunque sobbarcarmi troppo peso. Cioè nemmeno una camera d'aria trovi, secondo me, ormai di quelle misure. Quello potrebbe essere un problema. Infatti mi sono pure reso anche i riparagomme, sai, quelli delle ruote di biciclette. Sì, ma non servono a niente. Lo so, abbastanza, però almeno la speranza. Quello che si smetteva poi dentro la vaschetta col sapone e vedersi buttare. Bravo. Vabbè, alla fine comunque il mezzo artigianale potrebbe essere artigianale anche le riparazioni. Senti, come sei collegato con il mondo durante questo viaggio? Io uso il mio blog, se lo posso citare, si chiama... Sì, sì. vespanda.com, www.vespanda.com. Ecco, come lo aggiorni? Tu via via speri trovare connessione, attaccarti, sì. Beh, lì in America è molto più facile che da noi aver connessione. Io ho risparmiato, esatto, sul peso dei pezzi di ricambio per potermi portare un po' di tecnologia, ovvero mi sono portato il netbook, porterò il netbook in modo tale che quando posso, cioè la sera, mi collegherò a internet e aggiornerò il mio blog dicendo dove sono, mettendo alcune foto e raccontando un po' dell'esperienza. Vabbè, ti cercherò anch'io perché l'estate sarà lunga, allora lo ridico, il sito vespanda.com, esatto. È il blog di Ilario Lavarra che parte col suo Vespone e arriverà, se arriverà, quando arriverà, ma si divertirà moltissimo. In bocca al lupo, ciao! Melog 2.0. Stiamo eviscerando la passione motociclistica che porta nella sua più profonda e più genuina accezione a fare cose folli, a compiere imprese disperate. La moto nella sua versione, che è quella da me preferita, di strumento di libertà, è qualcosa che permette di compiere imprese che il raziocinio impedirebbe o sconsiglierebbe. Abbiamo sentito Ilario Lavarra, in prima parte della trasmissione, che farà 70.000 chilometri con una Vespa degli anni 70. Completamente folle, senza nessun motivo, senza nessuno che lo paghi, senza nessun punto positivo se non quello di fare qualcosa che è una sfida a se stessi. Sì, sarà perduto nell'Alaska con una Vespa di cui nessuno saprà dargli un pezzo di ricambio, ma ce la farà, arriverà fino in fondo probabilmente. Tanti altri ascoltatori stanno scrivendo e telefonando sul filo del racconto, sul filo della nostalgia. Chissà perché la motocicletta è un strumento così fortemente scardinatore di memorie, di nostalgie. Cosa accadrà quando questa generazione, che ha vissuto il senso dell'effrazione, il senso della distruzione, il senso della ricostruzione e dell'elaborazione di qualcosa che come per il centauro la parte bassa del proprio corpo, la motocicletta e il motociclista, quando uno può intervenire direttamente sulla propria moto, è come una capacità di potenziare le proprie capacità muscolari. Oggi la moto, meravigliosa, fantastica, però è strumento o di schiavitù, perché deve costringere dei piccoli grigi travè ad arrivare velocemente nel loro luogo di lavoro e tornare velocemente nelle loro piccole casette per rimanere sempre allineati, ordinati e controllati. Beh, è esattamente il contrario di tutto quello che rappresentava una volta. Nereo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ah, un grande ricordo questa mattina, mi avete fatto venire in mente 38 anni fa, avevo 14 anni, io e un mio amico decidiamo di fare un'impresa col nostro motorino nuovo, io un Malanca, lui un Benelli, e diciamo ai nostri genitori che dobbiamo fare un'intera giornata con il prete, con i Boy Scout, invece prendiamo su la mattina alle 5 partenza da Faenza e andiamo su verso Venezia perché volevamo vedere Venezia col Malanca. Col Malanca, io Malanca da cross e lui un Benelli da strada, insomma, due motorini 50, neanche tanto truccati, andavano a 40-50. Sì, erano diciamo ordinari, in legge, quelli che vi guardavano, insomma, con quello sguardo. Non contenti, dopo aver visionato bene Venezia, andiamo su, dai, abbiamo ancora del tempo, andiamo su fino a Bassano del Grappa e andiamo a fare un giretto sul Monte Grappa. Ma quante ore avete messo per andare su? Quante ore ci avete messo? Tutto, quando siamo tornati alle 10 di sera a casa, avevamo fatto qualcosa come 13-14 ore di motorino, 515 chilometri in una giornata, dalle 5 del mattino fino alle 10 di sera, eravamo stravolti. Poi la media secondo me non poteva essere più alta dei 40 all'ora, perché se ricordo il Malanca la cross aveva un rapporto dietro da salita. Avevo cambiato il rapporto, avevo messo il rapporto più piccolo. Ah, beh, se no dico... No, quello se no facevi 20 all'ora. Sì. Comunque è stato pazzesco perché lui aveva la sella quadrata, io invece ce l'avevo rotondeggiante. Ogni tanto ci cambiavamo la moto perché... E se no uno c'aveva il culo quadrato e l'altro rotondo, dovete per forza cambiarvi. Sì, perché ogni due ore ci cambiavamo la moto perché non riuscivamo più a stare seduti sulla moto. No, venivano le vesciche perché erano moto praticamente rigide. Ma è stato pazzesco. Poi a pensare che i genitori pensano che i loro figli siano tranquillamente col prete a fare i Boy Scout. Beh, oddio. E invece c'è rischio in tutto nella vita, non è detto, però certo è stato, questa volta è stata veramente è stata grossa. Ma loro, il prete ha mai vi ha coperto da questo punto di vista? No, non ha mai saputo niente nessuno, insomma. Quindi oggi lo sanno per la prima volta questa verità. Come? Per la prima volta lei sta rivelando al mondo questa botta al di vita. Al mondo sicuramente sì, ma io quando mi incontro con quel mio amico ne parliamo ancora, che abbiamo fatto una partita quel giorno, perché ci poteva capitare di tutto, a parte che il mio Malanca ogni tanto grippava, mi si bloccava la ruota posteriore, e il suo Benelli è andato benissimo, il mio era proprio un bidonaccio per la strada lunga. Ma non era fatto per quel tipo di... No, comunque è stata un'esperienza che ancora oggi io spero che mio figlio non lo venga mai a sapere, perché... Un particolare solo, dunque. Oggi un'impresa simile sarebbe documentata, già avremmo su YouTube filmati. Di quello non c'è nessuna traccia, era in epoca ancora in cui l'unico supporto del ricordo era la trasmissione orale. Senza telefonini, senza carte di credito, avevamo i soldi della benzina contati in tasca, perché si calcolava sui 30-35 chilometri con un litro e poi si andava, insomma, giusto i soldi per il panino in tasca, nessuno ci poteva trovare se ci capitava. Poi la miscela, mi ricordo, per risparmiare uno se la faceva da solo, comprava l'olio e metteva la benzina. Sì, il famoso olio di ricino, l'abbiamo fatto anche noi, che poi sporcava le candele. Sì, però era uno schifo. Era un profumo fantastico. Mi riportava proprio alle corse di Imola, quando si andavano a vedere Giacomo Agostini a Imola contro Phil Reed, e c'era quest'olio di ricino che si cominciava a sentire. Pensi che paradosso, l'olio di ricino nella generazione che ci ha preceduto era simbolo di costrizione, di negazione, per noi era simbolo di libertà, la generazione attuale non sa nemmeno cosa sia. Grazie Nereo, arrivederci. Grazie. Antonella, sì. Oh, finalmente una donna. La mia è una storia un po' diversa, non fatta di cose molto tecniche e non di potenze muscolari, anzi. Lei stava dietro. Però si potrebbe dire una storia quasi di liberazione femminile. Io ho iniziato, avevo un sogno, guidare un motorino, qualsiasi motorino mi fosse capitato per le mani. Questa fortuna era toccata a mio fratello, più grande di me, vivevamo nel cuore di un paesino di Sicilia, dove le ragazze non avevano motorini, tantomeno moto. E non potevano nemmeno montare su un motorino altrui? Sì, sì, almeno quello. Infatti... Però con le gambe tutte e due da una parte? No. Anche a cavalcio? Assolutamente no. Infatti mi è capitata l'occasione quando lui finalmente si ammalò. Aveva una febbre alta, non poteva andare a dare da mangiare a dei gattini che avevamo in una casetta di campagna. Per fortuna mio padre non c'era nessun'altra possibilità. E lui, con un'aria molto da maschio superiore, io dissi, vado io. E lui ovviamente disse, ma se non sei capace? Dico, vado lo stesso. E allora se sarai capace di andare, va bene, vorrà dire che ti presterò il motorino. Non l'avesse mai detto. Quello è stato, io ero morta di paura, ovviamente. Ma sapeva guidare? Chi gli aveva insegnato? Come? Chi le aveva insegnato a guidare? Nessuno, quella è stata la mia... Ma che motorino era? Personale, che motorino talmente... era? Come? Che motorino era? Era, non so se qualcuno di voi lo conosce, un BM Trick Track. Lo facevano, era un quattro marce, un motorino abbastanza basso, e lo facevano in colori terribili. Ah, giallo. Gialli. Ah, sì, me lo ricordo. Se lo ricorda? Era una sorta di imitazione, cioè era il nano rispetto a Nerly Davison, qualcosa del genere. Esatto. Era orrendo. Era una cosa incredibile. Me lo ricordo. Era giallo, giallo paglicalarino proprio. Come giallo, giallo pure arancione. Il mio arancione. Era arancione. Arancione, sì. Sì. Poi c'era questo manubrio cosa... alto, era una cosa... Ma era orrendo. Era orrendo, ma una delle cose più brutte del mondo. Per me. Sì. Era una cosa super. Quindi io sono salita su questa moto, per me era una moto, e sono andata di prima, col cuore che mi batteva a mille, però io sapevo che quella doveva essere la mia liberazione. Da lì poi è stato fantastico, poi da lì ho avuto delle moto invece più grosse, grazie al fatto di avere sempre mentito ai ragazzi. Cioè, ho detto a un mio amico che aveva una Suzuki che gli invidiavo moltissimo, mi trovavo a Caltanissetta, non so se lei conosce la Sicilia, da Caltanissetta percorrendo 50 chilometri come Far West si arriva a Mussomeli, questo paese arroccatissimo. E lei lo fece con la Suzuki del fidanzato? Non era il mio fidanzato, però era un ragazzo che nutriva qualche simpatia, cioè, per me. Cioè sperava nell'intima d'azione e gli ha prestato la moto, però non... Sì, io gli ho detto naturalmente che avevo già guidato delle grosse moto, non era vero. Ma comunque lei ha un'attitudine innata nel guidare moto, perché non è poi così facile, se non è mai montato su una moto, salire su una Suzuki. Sì, probabilmente sì, ma era una grande passione, poi in famiglia tutti guidavano benissimo, probabilmente. Beh, alla fine sì. Se l'hai comprata una moto? Poi ho sposato il mio amore, che aveva una Kawasaki 400, sì, vecchio tipo, azzurra, bellissima, e così me la sono garantita gratuitamente. A vita. Va bene, grazie Antonella, la sua è una grande storia di amore, di motocicletta, di fughe organizzate ed estirpate in maniera a volte anche fraudolenta, prese agli uomini che speravano, immaginavano che ciò potesse corrispondere a un'altrettanta tanto piacevole fuga con lei, ma non sempre questo è stato realizzato, se non nel caso di suo marito che se l'è presa per una Suzuki. Melog 2.0. Ma Harley Davidson è una, come posso definire, è una filosofia, è uno spirito di vita, è un modo di vivere, una passione che ci accomuna, ma che ci lega poi in sentimenti d'amicizia, di grande condivisione, di cameratismo durante i nostri viaggi, le nostre zingarate che facciamo in giro, quindi è molto, molto di più che una semplice moto, è una passione, è uno stile di vita. La puzza di benzina mi fa girare la testa, quando sto su di lei è proprio la mia festa. Mi guardo quando passo sui vetri dei negozi, mi accorgo che con lei mi sento proprio Ponzi. Una nota quatta ci voleva, ci stava benissimo, perché naturalmente andare in moto, amare la moto è anche avere la capacità, il gusto e l'eleganza di essere intrisi di spirito coatto. Lo spirito coatto è il vero humus della contemporaneità. Chi non capisce il coatto non capisce il tempo in cui sta vivendo. La passione per la tecnologia, il senso di affabilità e di capacità di entrare in sintonia con un meccanismo, con una macchina, con un ordigno, è tipico dell'animo popolare. Chi rifugge da questo rimarrà arroccato nelle sue terrazze a parlare con i suoi tristerrimi amici. Gianmarco Orù, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è un organizzatore di raduni di erlisti in Sardegna. Sì, buongiorno. Noi da 14 anni organizziamo nel Sulcis Siglesiente un raduno Harley Custom, diciamo, nato così per passione, dopo 14 anni siamo ancora qua. Ecco, lo sa perché mi intriga molto la sua cosa? Perché in realtà noi abbiamo parlato prima con uno che parte in Vespa, gira per le Tre Americhe. Gli arlisti e la Sardegna, alla fine, per quanto sia fantastica e meravigliosa, girano sempre intorno dentro la Sardegna? Sì, perché anche se non sembra, ci sono sempre tanti posti nuovi da scoprire in Sardegna. Quindi magari per spostarsi da una parte all'altra della Sardegna basta cambiare strada e vedere cose che non si sono mai viste, odori e profumi che sicuramente non tutti i giorni si possono... diciamo sentire, soprattutto guidando in macchina. No, ma interessante, lo dicevo senza ironia, cioè la vostra è una fuga nel profondo, cioè la natura isolana fa sì che non ci può essere questo senso di folle illimitatezza dei propri percorsi, non è che partite e arrivate dove chissà vi porta la strada, a un certo punto c'è il mare, ma quando arriva il mare voi girate e ritornate nel profondo perché c'è sempre qualcosa da scoprire, questa è la singolarità. Beh, certo. Soprattutto per chi dopo tanti anni viene ancora da noi, si attraversa mezza Sardegna e cambia sempre strada per arrivare da noi. Quindi però, diciamo, dal resto del mondo arriva gente in Sardegna con le loro motociclette? Sì, certo, abbiamo tanti amici dalla penisola, soprattutto da Bolzano, da Novara, insomma un po' da tutta l'Italia che vengono almeno una volta all'anno a trovarci. Beh, questa è uno scorcio interessante, non la conoscevo questa realtà, della possibilità del percorso illimitato nella circolarità di un'isola. Quindi complimenti, buon viaggio e continuate a girare finché vi piacerà. Antonino, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, salve, oggi è una bella puntata. Mi sono ricordato, ho 54 anni, quando ne avevo a principio 14 anni, con la mia Lampretta, ero rimasto senza benzina. E allora non è che si trovavano i distributori di oggi, c'era la miscela, quella che la davano a pompa lì, sì. E mi hanno favorito un litro di Super, un amico da una 600, dice l'olio dove lo prendo? mio padre, essendo che aveva la salumeria, dice: ma che manca l'olio di seme a tuo padre? Dice: là, dice, mettigli, dice, un po' di olio di seme. Non è possibile, l'ha grippato subito il motore. No, e io non glielo volevo mettere perché ero convinto. Siccome questo era un meccanico di Audi, mi ha detto: guarda che non grippi. Gli ho detto: ma si sa, guarda che ti porto la lampretta qua. Ma l'olio di seme frigge. Ma non è un olio lubrificante. Ma frigge l'olio di seme. Sì, sì, l'olio semi di vari, glielo giuro. E allora questa cosa qui, quando andavo, gli amici, ma che puzza, dice sempre che facevo, non so, del pesce fritto qualcosa. E poi quella cosa di là è andata, invece che glielo ho detto ai miei amici, dice sì. E poi quando è venuto un po' l'estate, che le persone a Catania, le case basse, stavano fuori, diciamo, seduti per prendere un po' tutto di fresco. Tutto con l'olio di semi nei motorini. Noi la sera facevamo un paio di litri di benzina con l'olio di semi più grassa e andavamo a scorazzare città a città e persone che ci buttavano, diciamo, delle sedie o qualcosa, disgraziati così. E noi l'abbiamo preso. Questa scusa invece l'abbiamo preso noi per il divertimento. E fino a oggi, quando lo racconto, non ci crede nessuno. Ma infatti invece io stento a credere che potesse funzionare questa cosa. Però... No, no, è una realtà. Io non ci credevo. A me è stato un amico meccanico di auto e mi ha detto: no, no, mettigli l'olio di semi, dice che non grippi, dice... è stato vero, Nicoletti, io non ci potevo mai credere, intanto è stata la verità, e quando lo dico non ci credo. Però, diciamo, odorava di friggitoria, quello era l'unico punto negativo. Sì, una cosa bellissima, con questo la saluto, è stato un piacere, dai. Beh, bellissimo, inquinavate il corso cittadino, però questo fa parte del divertimento, fa parte delle cose folli che si facevano, almeno una volta con una motocicletta sotto il sedere. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Eccomi. Il suo caballero l'ha modificato. Naturalmente, carburatore da 19, la marmitta rimaneva quella originale perché, insomma, abitavo a Bisceglie, provincia di Bari, e insomma, le guardie comunali comunque controllavano anche che la marmitta non fosse quella con il quella che si comprava dalla quella espansione che faceva tanto rumore. Esattamente, non tanto però, perché insomma anche mia madre non è che scherzasse tanto per fare il fracassone col coso stesso, però il caballero era qualcosa di... Io avrei amato l'Aspes di Gallarate, era naturalmente il modello 69. Esatto, il modello il Navaco si chiamava, aveva dei nomi di antiche tributi per le rotte. Sì, ma era già era un sogno per Fighetti, diciamo la verità. Era un sogno per Fighetti, il papà naturalmente ufficiale. Poi, dell'esercito. Adesso posso dire una cosa, prego. Confesserò qualcosa che le farà palpitare il cuore. Sì. Il caballero che rappresentava, diciamo, la giusta dose della trasgressione, sì, nel culto popolare, corrispondeva nel nome a un innominabile giornaletto che era l'iniziazione ai misteri della carne per la stessa generazione. Quindi caballero evocava ancora prima che il motorino il proibitissimo giornaletto che si trovava nelle barbierie, dai barbieri. Quindi avere il caballero era già equivaleva a contemporaneamente a soddisfare il bisogno di evasione, velocità e i primi palpiti che si sentivano verso i 14 anni. Esattamente. E quindi, signor Nicoletti, adesso, come ho detto alla sua cortese collaboratrice prima, il fatto di aver percorso la statale Briantea e per caso essermi ritrovato a Barzago, sede della Fantic Motor, e aver visto che la Fantic Motor al momento è un cumulo di macerie in attesa di lottizzazione, come dico, è stato effettivamente un pizzicotto al cuore, perché insomma col caballero... lo so, però diciamo è stato un momento fantastico, anche perché era un'industria nazionale che produceva, era la rinascita del mezzo di locomozione che fino a diciamo la seconda metà degli anni 60, il motorino come la Vespa era il mezzo di locomozione dell'operaio, di quello che non poteva ancora comprarsi l'utilitaria. Erano molto brutti, erano uguali, erano standard, e poi c'erano gli appassionati che lo compravano, la motocicletta, gli piaceva correre, via dicendo. Dal 67-68, con i ciclomotori che lei accenna e le prime moto che venivano importate da fuori strada, la moto cominciò a diventare un oggetto d'uso popolare per tutti, non soltanto i motociclisti, ma chiunque poteva avere la motocicletta. Io la ringrazio, con il suo ricordo concludo la trasmissione, ringrazio anche Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti che mi hanno assistito, Rocchetti in particolare con la lacrimetta negli occhi, perché anche lui ha avuto vespine truccate, motorini con l'acceleratore a corda a mano quando si rompeva, una volta che si erano rotti i freni della Vespa, per frenare ha dovuto accostare un autobus in corsa e frenare con il proprio giubbotto, e questo lo rende eroe e quindi degno emissore in onda di questa trasmissione. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.